Letture di Radio 24. Gli scioperi messi in atto la settimana scorsa dai tassisti di Milano per protestare contro il servizio di noleggio con conducente offerto dalla multinazionale Uber hanno suscitato molte proteste da parte dei cittadini. Se da una parte la loro rabbia è comprensibile, commenta Pierluigi Battista in un editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, perché ci si accanisce solo sui tassisti e non ad esempio sulle ferrovie, che approfittando del monopolio costringono migliaia di pendolari a subire ritardi e a viaggiare in condizioni disumane. Ma perché tanto furore giacobino contro i tassisti? Vi hanno forse oltraggiato facendovi perdere 2 minuti a Linate, magari dopo averne appena persi una settantina per via dell'Alitalia decotta di Stato, e senza neanche una protesta liberista contro l'inammissibile ritardo? Va bene, oramai il destino dei tassisti è segnato. Un'app al telefono cellulare li seppellirà. La magnifica Uber permetterà finalmente di spezzare un odioso monopolio, di facilitare i movimenti urbani dei cittadini, abbattere le tariffe, farci entrare nel futuro. Bene. Finalmente gli effetti di un'ottima combinazione di concorrenza e tecnologia. Ma perché per i tassisti piegati dalla modernità nemmeno un lamento? Un po' di pietas per lavoratori che ci rimettono il posto e il sudato costo di una licenza. Almeno a favore degli spazzacamini in via di estinzione si era mossa Mary Poppins. Ma perché per i tassisti, lavoratori in affanno della modernità, solo dileggio e accanimento? I tassisti sembrano il capro espiatorio dei malumori pubblici. A dare ascolto ai loro detrattori, sembra quasi che i tassisti, che insieme ai notai e ai farmacisti formano nel discorso virtuosamente indignato la triade di orchi corporativi, siano la sentina di ogni privilegio. Mica i 28.000 forestali in Sicilia contro i 400 rispettivamente in Liguria e Piemonte, per dire. No, i tassisti. Mica il monopolista prepotente delle ferrovie che per piegare le gambe alla concorrenza su percorsi locali costringe 1 milione di italiani pendolari al giorno a salire sui carri bestiame, luridi, malfunzionanti, lenti, inaffidabili, incivili, al di sotto di ogni standard europeo. No, i tassisti. Ora rischiano di perdere molto reddito grazie al provvidenziale telefonino. Niente, solo ingiurie. Ma non bisognerebbe ingiuriare i lavoratori che perdono lavoro e reddito per via delle tecnologie che cambiano. Mica ingiuriamo i minatori del Sulcis, per fortuna. Mica neghiamo la nostra solidarietà ai giornalisti che perdono il lavoro e alle testate che chiudono perché il mercato è spietato. Non è che si gioisca per una fabbrica che chiude, per un negozietto che abbassa la saracinesca, schiacciato dalla grande distribuzione, per un ufficio postale che va in pensione grazie ai provvidenziali servizi online che liberano la cittadinanza da file interminabili e umilianti. I tassisti invece no, sono meritevoli di ogni durezza. Certo, protestano contro i mulini a vento, bloccano una città per cercare di fermare il tempo inesorabile, ma solo loro bloccano le città? I cortei dei disoccupati non le bloccano, le città? Vorremmo che se ne andassero in silenzio, senza fiatare? Uber ci salverà da un servizio inefficiente e costoso. La soddisfazione dovrebbe finire qui. Mentre non fa scandalo che ci sia un'intera categoria di lavoratori di serie B, scamiciati e socialmente impresentabili. Chissà perché. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, Se sono i tassisti a perdere il lavoro, dal Corriere della Sera del 26 maggio. Letture di Radio 24. Quattro sberle benedette, il nuovo libro di Andrea Vitali, è ambientato nel 1929 a Bellano, sul lago di Como, e vede il ritorno di alcuni personaggi già protagonisti di precedenti romanzi, come l'appuntato siciliano Misfatti e il brigadiere sardo Manno. I due carabinieri, che tra di loro non si sopportano, questa volta sono alle prese con una serie di lettere anonime scritte in rima, dalle quali parrebbe che un personaggio di spicco del paese abbia l'abitudine di recarsi a Lecco per frequentare donne di malaffare. In realtà del caso dovrebbe occuparsene il maresciallo Ernesto Maccadò, che in quei giorni però è alle prese con una questione per lui molto più importante: l'imminente nascita del primogenito. Maccadò è seccato perché in paese tutti stanno facendo congetture sul sesso del nascituro, ma anche lui vorrebbe saperlo, perché in cuor suo si augura che almeno il primo dei 6 figli che ha programmato di avere sia un maschio. Come fare a scoprirlo? Dove la scienza dell'epoca non arrivava, entrava in soccorso la saggezza popolare. E così il maresciallo passa in rassegna tutti i metodi sacri e profani pur di arrivare a scoprire se sarà padre di un bambino o di una bambina. Il maresciallo Maccadò era entrato in caserma con in testa la Farfalà, non che la conoscesse così bene. Di lei sapeva quello che sapevano tutti: donna dall'età indefinibile che campava la vita facendo i mestieri più disparati. La bruttezza del suo viso, un reticolo di rughe ernianti, la voce lamentosa e le chiacchiere che erano nate intorno alla sua casa, dentro cui nessuno mai era entrato, le avevano creato una fama di indovina o strega, che dir si voglia. Della qualcosa la Farfalà, come sempre assediata dai debiti e dalla fame, aveva approfittato. Dava, dietro compensi variabili, consigli della più diversa natura e quasi sempre rassicuranti, interpretando anche sogni e segni. Aveva inoltre delle mani singolarmente belle, risparmiate dall'artrosi che picchiettava invece il resto del suo scheletro, così belle che non sembravano appartenerle, donatele da chissà quale benvolere divino, e che erano all'origine di leggenda, poiché parecchi in paese le ritenevano perfino terapeutiche. Giuravano costoro che il loro tocco aveva guarito certi dolori, e altri, infine, che poste sull'addome di una gravida riuscivano a percepire il sesso del nascituro. Solo alcuni scettici affermavano che quel che toccava andasse a male, raccontando di neonati con 2 teste o privi di arti, finiti nel lago per mano della stessa Farfalà. Al Maccadò tutte quelle fole erano sempre sembrate fantasie di menti primitive. Ma adesso meditava nel suo ufficio, solo soletto, la porta chiusa e il pensiero che non si staccava da quell'interrogativo. Qual era il sesso del nascituro? Possibile che fosse davvero femmina? E se aveva un po' di ragione quel somaro che aveva incrociato al caffè poco prima, se la cosiddetta saggezza popolare ogni tanto ci pigliava, visto che la scienza non poteva spiegare tutto, che male poteva fare tentare anche quella strada? Insomma, che male c'era nel chiedere a sta Farfalà di mettere una mano sulla pancia di sua moglie e sentire cosa ne pensasse? Innanzitutto, s'era poi detto, prima di passare all'azione era fondamentale saperne un po' di più. Aveva sotto mano il soggetto giusto cui chiedere, l'appuntato Misfatti, che dei cazzi del paese era vera e propria antologia. L'aveva chiamato solo verso sera, fuori orario di servizio. Aveva chiuso la porta, benché non ci fosse nessun altro oltre a loro due. Aveva parlato sottovoce e l'appuntato Misfatti l'aveva dissuaso. Cioè, aveva tentato di farlo. La Farfalà, d'accordo, ma io ho da proporvi molto di meglio. La chiamavano Mezzaluna perché una parte del viso era sfigurata da una vecchia ustione. Attorno a lui non correvano tutte le voci che circondavano la Farfalà. E questo Mezzaluna, ecco, riusciva a capire se un figlio era maschio o femmina? Il Misfatti aveva corrugato la fronte. Quando è ancora nel grembo materno, s'era affrettato a chiarire il maresciallo. Anche a una sola occhiata, aveva assicurato il Misfatti, che poi, avendo già fatto 2 più 2, aveva osato. Ma maresciallo, se si tratta della vostra signora, ma chi l'ha detto? Era scattato il Maccadò. Scusate allora. Il Maccadò aveva riflettuto. Prima di muovere anche un solo passo, doveva per forza mettere al corrente sua moglie. Mica detto, così su 2 piedi, che l'avrebbe presa bene. D'accordo, aveva deciso congedando l'appuntato. Tenetemeli in caldo tutti e 2, vi farò sapere. Voleva prendersi tutto il comodo per decidere con tranquillità. Avete ascoltato la lettura di alcune pagine dal libro di Andrea Vitali, 4 sberle benedette, Garzanti, 384 pagine, €16,40. Dalla lotta all'alta velocità alle manifestazioni contro le politiche del governo, l'antagonismo alza il tiro e si sposta sempre di più verso l'eversione. Aggressioni, scontri, minacce di morte, attentati dinamitardi. L'antagonismo italiano conferma mese dopo mese la sua pericolosa vitalità, senza mai abbandonare il filone della lotta all'alta velocità. Agli ormai consueti attacchi alle sedi del PD, considerato sostenitore del progetto TAV, questa volta si sono affiancati gli assalti al cantiere di Chiomonte e le intimidazioni al sindaco e all'assessore ai trasporti di Susa, ai quali sono state spedite buste con proiettili accompagnate da espliciti messaggi minatori. Altre iniziative eversive hanno avuto origine dalla manifestazione avvenuta a Roma il 12 aprile contro le politiche economiche e sociali del governo. Nel corso della protesta, nuclei di antagonisti si sono staccati dal corteo per tentare un assalto al Ministero del Lavoro, scontrandosi con la polizia. Da sottolineare la grande organizzazione dei gruppi, che prima dell'assalto indossavano giacche a vento blu, per meglio riconoscersi in mezzo alla confusione, e una volta colpito il loro obiettivo, sono rientrati nel corteo abbandonando in strada le divise. Anche la lotta contro la repressione ha fatto i suoi proseliti a Torino e a Genova. Nel capoluogo piemontese un gruppo di incappucciati ha pestato a sangue l'autista del sostituto procuratore Antonio Rinaudo, protagonista della lotta all'eversione. Mentre si allontanavano, gli aggressori hanno urlato all'autista ferito: «Questa è la fine che fanno i servi dei servi». L'aggressione non è stata rivendicata pubblicamente, ma gli inquirenti sono certi che sia riconducibile alle frange più violente del movimento anti-TAV. A Genova, invece, è stato dato alle fiamme lo scooter di un agente della Digos, Giovanni Pantanella. Nel messaggio di rivendicazione apparso in seguito sul web si legge: «Solidarietà a tutti coloro indagati, denunciati, identificati, arrestati da questo infame durante la sua miserabile esistenza». Pochi giorni dopo, ancora nel capoluogo ligure, un ordigno esplosivo attivato a distanza è stato fatto deflagrare nei pressi di un commissariato di polizia. Avete ascoltato la lettura dell'articolo «Una pericolosa vitalità» da Lookout di maggio. Come mai Francesco parla in italiano a palestinesi e israeliani? Perché non è poliglotta? Perché l'italiano è la lingua d'uso della Santa Sede? Perché ama presentarsi come vescovo di Roma? La sistematica preferenza per l'italiano non è nuova negli atti pubblici di Papa Bergoglio. Fa così quando è in Vaticano e così aveva fatto nel viaggio dello scorso luglio in Brasile. Ma stavolta è stata notata di più, stante la lontananza linguistica dei mondi con i quali è venuto a contatto. Per primo viene il fatto che Bergoglio non ha pratica di lingue che non siano lo spagnolo e l'italiano. Il francese l'ha studiato a scuola, ma poco l'ha usato. I predecessori si impegnavano a parlare le lingue degli ospiti. Wojtyla con versatilità Wojtyla con versatilità slava, Ratzinger con disciplina tedesca e con migliori risultati. Francesco preferisce evitare la fatica di esprimersi in lingue che non padroneggia. È un elemento di quella che chiama grammatica della semplicità. Ama essere se stesso e apparire per quello che è. Non disponendo dell'inglese, che è la lingua franca del mondo d'oggi, egli ripiega sull'italiano, che è la lingua franca della Santa Sede e della Chiesa Cattolica, essendo la più parlata negli ambienti vaticani ed ecclesiastici, anche se formalmente il latino è ancora la lingua ufficiale. L'italiano era da sempre la lingua d'uso della Santa Sede, se si esclude il periodo avignonese, ma con Francesco quest'uso è divenuto quasi esclusivo. Nei messaggi urbi e torbi dei giorni di Natale e di Pasqua, Pio XII, Giovanni XXIII, Paolo VI facevano gli auguri in 6 lingue. Wojtyla e Ratzinger sono arrivati a farli in 65 lingue. Francesco li fa solo in italiano. Alle udienze saluta i gruppi in italiano e poi gli addetti della segreteria di Stato traducono il saluto in 7 lingue: francese, inglese, tedesco, spagnolo, portoghese, arabo e polacco. Nello stesso numero di lingue vengono dati alla stampa i suoi discorsi più importanti, ma egli li propone solo in italiano ed è così diventato il primo ambasciatore della nostra lingua nel mondo. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Luigi Accattoli, La scelta linguistica di Papa Bergoglio, ambasciatore dell'italiano nel mondo, dal Corriere della Sera del 27 maggio.